terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Con la lettura scorsa eravamo rimasti al momento in cui gli stati maggiori dell'esercito russo vengono informati che quello francese nella sua totalità si trova ormai a Fominskoje. E poi ci siamo lasciati sull'immagine bellissima del vecchio Kutuzov che, avuta la notizia della ritirata dei francesi, scoppia in lacrime ringraziando il Signore. La terra promessa durante l'avanzata dei francesi era Mosca, durante la ritirata era la patria. Ma la patria era troppo lontana, e per un uomo che fa mille miglia è assolutamente necessario dirsi, dimenticando la meta finale, oggi, dopo 40 miglia di cammino, arriverò in un luogo dove mi riposerò e passerò la notte. E nella prima tappa questo luogo di riposo pone in ombra la meta finale e concentra in sé tutti i desideri e tutte le speranze. Per i francesi che tornavano indietro per la vecchia strada di Smolensk, la meta finale della patria era troppo lontana, e la meta più vicina, quella a cui tendevano tutti i desideri e tutte le speranze, aumentando in proporzioni enormi nella folla, era Smolensk. Non perché gli uomini sapessero che a Smolensk c'era abbondanza di viveri e di truppe fresche, non perché qualcuno l'avesse detto loro, al contrario, gli alti gradi dell'esercito e Napoleone stesso sapevano che là i viveri erano scarsi, ma perché solo ciò poteva dar loro la forza di andare avanti e sopportare le privazioni presenti, essi, quelli che sapevano e quelli che non sapevano, illudendosi tutti ad un modo, aspiravano a Smolensk come ad una terra promessa. Ognuno di quegli uomini desiderava soltanto una cosa: darsi prigioniero, sottrarsi a tutti gli orrori e a tutte le sventure. Ma il loro stesso numero e il loro serrato, rapido movimento toglievano loro questa possibilità e rendevano ai russi non soltanto difficile, ma impossibile arrestare quel movimento, nel quale era concentrata tutta l'energia della massa dei francesi. La disgregazione meccanica del corpo non poteva accelerare oltre un certo limite il processo di decomposizione in atto. Non si può fare struggere istantaneamente una palla di neve. Esiste un certo limite di tempo prima del quale nessuna forza di calore può struggere la neve. Al contrario, quanto maggiore è il calore, tanto più compatta diventa la neve che resta. Dei capi militari russi nessuno, tranne Kutuzov, lo capiva. Tutti gli alti gradi dell'esercito volevano distinguersi, tagliare fuori, catturare, fare prigionieri, sbaragliare i francesi e tutti chiedevano di attaccare. Kutuzov da solo adoperava tutte le sue forze a impedire l'offensiva. Egli non poteva dire loro ciò che noi diciamo adesso. Perché dare battaglia e sbarrare la strada e perdere uomini dei nostri e spacciare disumanamente degli infelici? Perché tutto ciò, quando da Mosca a Vyazma, senza battaglia, un terzo di quelle truppe s'è liquefatto? Ma egli parlava loro, ricavando dalla sua saggezza di vecchio ciò che essi avrebbero potuto capire. Parlava loro del Ponte d'Oro, ed essi ridevano di lui, lo calunniavano, andavano sulle furie, si agitavano e facevano gli spacconi davanti alla fiera ferita. E per quanto Kutuzov si sforzasse di trattenere le nostre truppe attaccavano, cercando di sbarrare la strada al nemico. I reggimenti di fanteria, a quel che si racconta, andavano all'attacco con la musica e al rullo dei tamburi e uccisero e persero migliaia di uomini. Ma quanto a tagliar fuori, non tagliarono fuori nessuno e non sbaragliarono nessuno. E l'esercito francese, strettosi più fortemente per il pericolo, seguitò, struggendosi in modo costante, quel suo disastroso cammino verso Smolensk. Frattanto in Russia iniziano ad aggregarsi delle forze di resistenza spontanee ai francesi, per cui Napoleone si lamenta presso l'imperatore Alessandro e anche presso Kutuzov per l'assenza di regole con cui questi gruppi combattono. La cosiddetta guerriglia inizia fin dal momento in cui i francesi entrano a Smolensk e si formano centinaia e centinaia di bande più o meno organizzate o più o meno raccogliticce. Ad esempio, ci fu un suddiacono a capo di una banda che in un mese prese parecchie centinaia di prigionieri. Ci fu Vasilisa, la moglie di uno starosta, che uccise centinaia di francesi. Il 22 ottobre Denisov, che era uno dei capibanda, si trovava col suo reparto proprio nel pieno bollore della passione per la guerriglia. Dalla mattina egli era in marcia con la sua banda. Tutto il giorno era stato per le foreste che costeggiavano la strada maestra, seguendo un grosso convoglio francese che, separato dalle altre truppe, trasportava dei bagagli della cavalleria e dei prigionieri russi e, ben protetto, come si era saputo dagli informatori e dai prigionieri, si dirigeva verso Smolensk. Sapevano di questo convoglio non solo Denisov e Dolokhov, anche lui capo di una piccola banda che procedeva nelle vicinanze di Denisov, ma anche i capi dei grandi distaccamenti che avevano uno stato maggiore. Tutti sapevano di questo convoglio e, come diceva Denisov, gli mostravano i denti. Due di questi capi di grandi distaccamenti, uno polacco, l'altro tedesco, quasi nel medesimo tempo mandarono a Denisov, ciascuno per conto suo, l'invito di unirsi al proprio distaccamento per assalire il convoglio. «No, amico, anch'io c'ho le unghie», disse Denisov dopo aver letto quelle carte, e scrisse al tedesco che, malgrado il suo intimo desiderio di servire sotto il comando di un generale tanto brillante e rinomato, doveva privarsi di questo piacere, perché s'era già posto sotto il comando del generale polacco. Al generale polacco scrisse lo stesso, comunicandogli di essersi già posto sotto il comando del tedesco. Operando in questo modo, Denisov si proponeva, senza darne partecipazione alle autorità superiori, di attaccare insieme con Dolokhov il convoglio e di impossessarsene con le sue poche forze. Il 22 ottobre il convoglio andava dal villaggio di Mikulino al villaggio di Samshevo. Dalla parte sinistra della strada fra Mikulino e Samshevo correvano grandi foreste che in certi punti arrivavano fino alla strada e in certi altri se ne allontanavano un miglio e più. Tutto il giorno Denisov marciò con la sua banda per quelle foreste, ora addentrandosi nel profondo di esse, ora venendo sul limite, senza perdere di vista i movimenti dei francesi. Bisognava lasciarli giungere tranquillamente a Samshevo senza spaventarli, e lì, unendosi a Dolokhov, che doveva arrivare la sera per prendere accordi, al posto di guardia della foresta, a un miglio da Samshevo, piombare loro fra capo e collo all'alba, da tutte e due le parti, e schiacciarli e catturarli tutti in una volta. Era una tiepida e piovosa giornata d'autunno. Il cielo e l'orizzonte erano del medesimo colore d'acqua torbida. Ora cadeva una specie di nebbia, ora a un tratto veniva giù una grossa pioggia obliqua. Denisov montava un cavallo di razza, magro, coi fianchi stretti nei finimenti, ed era in mantelletto di feltro e berretto di pelo d'agnello, dai quali scorreva giù l'acqua. Tal quale come il suo cavallo, curvando la testa e abbassando gli orecchi, storceva la faccia sotto quella pioggia obliqua e guardava inquieto davanti a sé. Il suo viso smagrito, coperto di una folta e corta barba nera, appariva irritato. Accanto a Denisov, anche lui in mantelletto di feltro e berretto di pelo d'agnello, su un forte e ben nutrito cavallo del Don, veniva un cosacco, collaboratore di Denisov. Era un uomo piatto come un asse, bianco di viso, biondo, con gli occhi stretti e chiari, e un'espressione tranquilla e soddisfatta di sé nel viso e in tutto l'atteggiamento. Benché fosse impossibile dire che cosa c'era di particolare nel cavallo e nel cavaliere, pure alla prima occhiata gettata sul cosacco e su Denisov, si vedeva che Denisov era tutto bagnato e a disagio, che Denisov era un uomo a cavallo, mentre, guardando il cosacco, si vedeva che gli si sentiva a suo agio e tranquillo come sempre, e che non era un uomo a cavallo, ma un uomo che formava un essere solo col cavallo, fatto più grande da una duplice forza. Un poco innanzi a loro camminava un contadinotto che faceva da guida, tutto zuppo di pioggia, in gabbano grigio e berretto bianco. Un poco indietro, su un magro, sottile cavallino kirghiso con un'enorme coda, un'enorme criniera e la bocca insanguinata, veniva un giovane ufficiale con un cappotto turchino francese. Accanto a lui andava un ussero che portava dietro di sé, in groppa al cavallo, un ragazzo in un uniforme francese tutta lacera e con un berretto turchino. Il ragazzo si teneva all'ussero con le mani rosse dal freddo, muoveva per riscaldarli i suoi piedi nudi e, levando le sopracciglia, guardava meravigliato intorno a sé. Era un tamburino francese fatto prigioniero la mattina. Dietro, per lo stretto sentiero della foresta che si sparpagliava battuto in tutti i sensi, per tre o per quattro venivano in fila gli usseri, poi i cosacchi, chi in mantelletto di feltro, chi in cappotto francese, chi con una gualdrappa gettata sulla testa. Gli uomini se ne stavano rattrappiti, cercando di non muoversi per riscaldare l'acqua che penetrava fino ai loro corpi e non lasciarne entrare di quella nuova, fredda, che gocciolava di sotto alla sella, alle ginocchia e dietro al collo. In mezzo alle file dei cosacchi avanzavano due furgoni tirati da cavalli francesi con aggiuntisi dei cavalli cosacchi sellati che strepitavano sui ceppi e sui rami secchi e sguazzavano nelle carreggiate piene d'acqua. Denisov era di malumore per via della pioggia, della fame, dalla mattina non aveva mangiato nulla e principalmente perché fino a quel momento non c'erano notizie di Dolokhov. Giunto a una radura dove si vedeva lontano, Denisov si fermò. «Viene qualcuno», disse. Veniva infatti un ufficiale tutto scarmigliato, insuppato di pioggia e coi pantaloni rovesciati fin sopra al ginocchio. Dietro a lui, ritto sulle staffe, trottava un cosacco. L'ufficiale, un ragazzo giovanissimo con un viso largo e colorito e gli occhi mobilissimi e lieti, galoppò fin presso a Denisov e gli diede un piego tutto zuppo. Quell'ufficiale era Petya Rostov. Per tutta la strada Petya s'era preparato al contegno che, come persona grande e come ufficiale, doveva tenere con Denisov, senza alludere alla loro passata conoscenza. Ma non appena Denisov gli ebbe sorriso, subito Petya diventò raggiante, arrossì di gioia e dimenticò il contegno dignitoso che aveva preparato. Cominciò a raccontare come era venuto, passando davanti ai francesi, e come era contento di quella missione che gli avevano data, e che era già stato in un combattimento sotto Vjasma, e che là un certo ussero s'era distinto. Denisov l'interruppe, e il suo viso prese un'espressione preoccupata. «Posso restare con voi?» disse Petya, e arrossì. «Posso rimanere, credo», disse in tono interrogativo. «Bene», disse Denisov. E rivolto ai suoi sottoposti, diede le disposizioni perché la banda andasse al luogo di riposo stabilito nella foresta, presso il posto di guardia, e perché l'ufficiale che montava il cavallo kirghiso, quell'ufficiale faceva le funzioni di aiutante maggiore, andasse a cercare Dolokhov per sapere dov'era e se sarebbe venuto quella sera. Petya, dopo essere partito da Mosca lasciando i suoi, aveva raggiunto il suo reggimento e poco dopo era stato preso come ufficiale d'ordinanza da un generale che comandava un grosso distaccamento. Dal momento della sua promozione a ufficiale, Petya si trovava in uno stato continuo di felicità e di eccitazione per la gioia di essere grande e in una continua e entusiastica ansietà di non lasciar passare nessuna occasione di atti veramente eroici. Era molto felice di tutto ciò che aveva veduto e provato in guerra, ma nello stesso tempo gli pareva sempre che là dove non c'era lui si compissero le gesta più eroiche e si affrettava a correre sempre in qualche altro posto. Quando il 21 ottobre il suo generale aveva espresso il desiderio di mandare qualcuno al distaccamento di Denisov, Petya aveva supplicato tanto d'essere mandato lui che il generale non aveva potuto rifiutare. Ma gli proibì assolutamente di prendere parte a qualsiasi azione delle truppe di Denisov. Ed è per questo che Petya era arrossito e aveva sorriso quando Denisov gli aveva domandato se poteva rimanere. Finché non erano giunti al limitare della foresta, Petya riteneva di dover compiere rigorosamente il suo dovere, tornando subito indietro. Ma quando aveva visto i francesi e aveva saputo che nella notte ci sarebbe stato senza fallo un attacco, col subito mutare dei giovani da un punto di vista ad un altro, aveva concluso fra sé che il suo generale, che fino allora aveva rispettato molto, non valeva niente, era un tedesco, e che Denisov era un eroe, e che sarebbe stata una vergogna per lui lasciarlo in quel momento difficile. Era già il crepuscolo quando Denisov, con Petya e il cosacco, giunse al posto di guardia. Nella penombra si vedevano cavalli sellati, cosacchi, usseri, che costruivano baracche nella piana e, perché i francesi non vedessero il fumo, accendevano i fuochi in un burrone della foresta. Nell'entrata della piccola isba, un cosacco con le maniche rimboccate faceva a pezzi un montone. Nell'isba erano tre ufficiali della banda di Denisov che stavano facendo un tavolo con una porta. Petia si tolse la giubba bagnata per metterla ad asciugare e subito cominciò ad aiutare gli ufficiali nell'allestimento del tavolo per desinare. Dopo 10 minuti il tavolo era pronto e coperto da un tovagliolo. Sul tavolo c'era dell'acquavite e del rum in un barilotto, del pane bianco e del montone arrostito col sale. Seduto a tavola insieme con gli ufficiali, facendo a pezzi con le mani sulle quali gli colava il grasso, il montone succulento e odoroso, Petia si trovava in uno stato di infantile entusiasmo e di tenerezza verso tutti e per conseguenza nella persuasione che questa sua tenerezza l'avessero anche gli altri per lui. «Sicché, Vassili Fyodorovich», disse rivolgendosi a Denisov, «pensate che non sia grave se rimango un giorno con voi». E senza aspettare la risposta dell'altro, si rispose da sé. «Del resto, mi è stato ordinato di informarmi, ed ecco che mi informo. Soltanto mi lascerete andare dove c'è più da fare. Io non ho bisogno di ricompense, ma vorrei...» Petia strinse i denti e si guardò intorno, scuotendo la testa che teneva levata in alto e agitando un braccio. «Dove c'è più da fare?» ripeté Denisov sorridendo. «Soltanto vi prego, datemi un comando qualunque. Che io comandi», proseguì Petia. «Via, che vi costa?» «Ah, volete un coltello?» fece rivolto a un ufficiale che voleva tagliare il montone e gli diede il suo coltello a serramanico. L'ufficiale fece l'elogio del coltello. «Tenetelo, vi prego, io ne ho parecchi», disse Petia arrossendo. «Padri santi, avevo dimenticato!» esclamò egli a un tratto. «Ho dell'uva passa eccellente, sapete, di quella senza semi. Abbiamo un nuovo vivandiere che ha delle cose così buone. Io ne ho comprato 10 libbre. Sono abituato alla roba dolce. Ne volete?» E Petia corse nell'entrata dal suo cosacco e portò dei sacchetti dove c'erano 5 libbre di uva passa. «Mangiate, signori, mangiate! Forse avete bisogno di una caffettiera?» disse rivolgendosi al cosacco. «Ne ho comprata una splendida dal nostro vivandiere. Ha delle cose magnifiche. Ed è molto onesto, questo è l'essenziale. Ve la manderò senza fallo. Ma forse avete già finite e consumate le vostre pietre focaie? Può accadere. Ne ho portate con me. Eccole!» accennò ai sacchetti. 100 pietre focaie! Le ho comprate a buon mercato. Per favore, prendetene quante ve ne occorrono, anche tutte!» E ad un tratto, temendo d'aver divagato troppo, Petia si fermò e arrossì. Si mise a pensare se mai avesse fatta qualche altra sciocchezza. E ricapitolando i ricordi della giornata, gli venne in mente il tamburino francese. «Noi stiamo ultimamente qui. Ma lui che fa? Dove l'avranno mandato? Gli avranno dato da mangiare? Non gli avranno fatto del male», pensò, ma essendosi accorto di essere uscito dal seminato a proposito delle pietre focaie, adesso era intimidito. «Posso domandare di lui?» pensava. «Diranno, è un ragazzo e ha compassione di un ragazzo, ma domani vedranno che ragazzo sono. Sarà vergogna a domandare?» pensò Petia. «Su, su, tanto vale». E subito, arrossendo e guardando timidamente gli ufficiali per vedere se non ci fossero dei sorrisetti sui loro volti, disse: «Posso far chiamare quel ragazzo che hanno fatto prigioniero e dargli qualcosa da mangiare? Forse...» «Ma sì, povero ragazzo», disse Denisov, che evidentemente non trovava nulla di vergognoso in quel ricordo. «Chiamatelo. Fatelo venire qua. Si chiama Vincent Boss. Chiamatelo». «Lo vado a chiamare io», disse Petia. «Chiamalo, chiamalo, povero ragazzo», ripeté Denisov. Petia era presso la porta quando Denisov disse questo. Petia scivolò fra gli ufficiali e andò vicino a Denisov. «Permettete che vi dia un bacio, caro», disse. «Ah, come si sta bene! Che bella cosa!» E dopo aver dato un bacio a Denisov, se ne scappò fuori. «Boss! Vincent!» si mise a gridare Petia, fermandosi presso la porta. Nel buio si udirono dei passi e, strascicando i piedi nudi nel fango, il tamburino si avvicinò. «Ah, c'est vous!» disse Petia. «Voulez-vous manger? N'ayez pas peur!» aggiunse timidamente, con voce carezzevole, toccandogli il braccio. «Entrez, entrez!» «Merci, monsieur», rispose il tamburino, con voce tremante e quasi infantile, e si mise a ripulire sulla soglia i suoi piedi sporchi. Petia avrebbe voluto dire molte cose al tamburino, ma non osò. Stava in piedi accanto a lui, nell'entrata, e si dondolava sulle gambe. Poi, nel buio, gli prese la mano e la strinse. «Entrez, entrez», ripeté soltanto, in un dolce mormorio. E quando il tamburino fu entrato nell'isba, Petia sedette discosto da lui, stimando umiliante per sé fargli troppa attenzione. Soltanto si tastava in tasca il denaro ed era nel dubbio se fosse una cosa ridicola o no darlo al tamburino. Guerra e pace di Lev Tolstoi.